la mia idea si fa arte. Io non cerco un simbolo, ma un mondo che respira, una rete che si apre e non che si ritira. Nei cavi corre il potere tra server e padroni, ma nei nodi più nascosti vivono rivoluzioni. Erano i tempi del peer-to-peer, la libertà scorreva in bits sinceri. Decentralizza il cuore, libera la mente, non serve un trono se la luce è condivisa tra la gente. Da Prometti al codice, da Marx al futuro, l'utopia non formato la paura in una firma, ma i pirati dell'anima non si fermano mai, navigano tra forum, tra Wikipedia e guai. Poi nacquero i social, col nome e col volto, il potere tornò a sedersi sul trono d'oro colto. Ma tra criptovalute e sogni ribelli, i bui fuggirono ancora dai cancelli. Servire, ma qualcuno l'ha liberata per farci risalire. Codici aperti come ferite che guariscono chi non ha voce né vite. Ora i potenti tremano, di etica e paura, ma la vera minaccia è la conoscenza pura. L'AI Act è una gabbia, il GDPR una scusa per dire al mondo la libertà è confusa. Ma nei garage e nei sogni collettivi nasce un futuro di umani creativi, un tecnoanarchismo che danza sull'aria tra biohacker, filosofia e libertà necessaria. Quando anche la morte non farà più paura, tornerà l'essere nell'era più futura. Non più schiavi del tempo,